Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City, bentornata anche a Margherita Fronte. Buonasera. Che è stata con noi anche ieri sera, giornalista scientifica, ha scritto un libro di cui stiamo parlando, Aria da morire, edizione Dalai, autori Margherita Fronte e Pier Manuccio Mannucci, che è il direttore scientifico del Policlinico di Milano. Di cosa parliamo? Parliamo di inquinamento dell'aria. Ieri abbiamo fatto un punto sull'inquinamento esterno, il tema delle polveri sottili, tema di cui si parla moltissimo, mentre non si dice quasi mai niente di quella che è la qualità dell'aria all'interno degli ambienti nei quali però trascorriamo il 90% del nostro tempo. In realtà, tranne che fa il venditore ambulante o il tassista, in linea di massima noi stiamo al chiuso. Voi dedicate tutta la seconda parte del libro a questo tema. Intanto, qual è la situazione della qualità dell'aria mediamente all'interno delle case, sì, degli uffici? Intanto va precisato, appunto, come dicevi tu giustamente, che la maggior parte della nostra esposizione agli inquinanti avviene dentro le abitazioni, nei luoghi chiusi, nei luoghi di lavoro, perché è qui che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, e anche perché nei luoghi chiusi si concentrano sia gli inquinanti che provengono dall'esterno, che ristagnano e raggiungono spesso concentrazioni più elevate negli ambienti interni che fuori. Parliamo degli inquinanti di cui abbiamo discusso ieri, il particolato fine, gli ossidi di azoto e così via. E in più ci sono delle fonti specifiche di inquinamento indoor, che sono immobili, materiali da costruzione, i prodotti che si usano per la pulizia della casa, le sigarette, che sono la principale sorgente inquinante dei luoghi chiusi, che contribuiscono a emettere una serie di altri composti molto vari fra loro e tossici e irritanti per le vie aeree. Uno famosissimo è la formaldeide, no? Formaldeide è un cancerogeno, addirittura non è solo un tossico irritante, è un cancerogeno, si sprigiona soprattutto dai mobili, da alcuni tipi di mobili. Certe colle o certe vernici ne contengono, per esempio. Sebbene sia forse l'unico su cui è stata fatta un'azione legislativa un po' importante, perché sono stati posti dei limiti alle emissioni che possono derivare dai mobili, mentre sugli altri inquinanti purtroppo non esiste ancora una regolamentazione. Ecco, se io ti dico: ma senti che bel profumo di COV, tu cosa mi rispondi? Mi viene subito da tossire e da starnutire. Perché cosa sono questi COV? I COV sono i composti organici volatili e sono una classe di sostanze molto variegata e molto eterogenea, che si sprigiona soprattutto dai prodotti per la pulizia per la casa, non solo da questi, ma insomma sostanzialmente le principali sorgenti sono queste qui, e appunto sono volatili, raggiungono i polmoni, le vie aeree, sono irritanti e possono per esempio predisporre all'asma, favorire l'asma, insomma. Ecco, la mia non era tanto una battuta, perché diciamo è anche un po' quel profumo che cerca la casalinga di ottenere a casa sua lustrando dappertutto, ma in realtà poi diciamo si hanno forti dispersioni di questi. Infatti diciamo l'eccessiva pulizia in casa in realtà è nociva per questo motivo. Questo mi rende felice, dirò. Anche a me. Per questo motivo sostanzialmente. Ci sono delle stime degli effetti sulla salute, per esempio stime di mortalità legate all'inalazione insomma di queste sostanze negli ambienti chiusi? Stime di mortalità per i COV, per gli altri composti organici dell'inquinamento indoor, in realtà non ci sono, perché è molto difficile fare queste stime in quanto l'esposizione è veramente molto variabile e soprattutto manca anche un monitoraggio adeguato. Insomma è difficile che uno si faccia monitorare la casa. Si mette una centralina in casa, esatto, come quelle che ci sono per non le strade. Non ci sono questi monitoraggi, spesso sono insufficienti anche nei luoghi di lavoro, quindi figurarsi nelle abitazioni private. Peraltro c'è invece una stima per un altro inquinante indoor, che è il radon, che è un gas radioattivo che si sprigiona da alcuni tipi di rocce e anche da alcuni tipi di materiale da costruzione, che ristagna nelle case, favorisce il tumore del polmone e provoca in Italia 3.000 morti all'anno. Quindi sono veramente tanti per un inquinante che è grandemente sottovalutato. 3.000 morti all'anno sono quasi morti sulle strade, sono 3.800 circa in un anno. Sì, sono più dei morti sul lavoro, sicuramente. Il radon però è identificabile, cioè si si può rilevare se la propria casa ha questo problema, perché non è un problema generalizzato, no? Allora, il radon si concentra, è presente soprattutto in alcune zone d'Italia, e le ARPA regionali fanno dei monitoraggi all'interno delle regioni, appunto per capire quali sono le zone a rischio, e ci si può rivolgere a loro per capire se si abita in una zona diciamo un po' più pericolosa, o comunque se si vuole monitorare la situazione. Ci sono anche degli istituti privati che offrono questo servizio, e se è al di sopra dei livelli ritenuti di allerta, di allarme, si possono effettivamente fare degli interventi sulla casa per isolarla meglio oppure per migliorare la ventilazione, che riducano la presenza di radon. Ecco, stiamo arrivando alla chiusura, diciamo, di questa nostra intervista. Quali sono i rimedi? Che cosa si può fare per ridurre la presenza di questi inquinanti? Uno, abbiamo detto, non esagerare con le pulizie. Sì, per i COV assolutamente quello è il principale. Per tutti gli inquinanti indoor è fondamentale areggiare la casa. Per il radon ci sono dei sistemi anche di ventilazione forzata che possono essere installati negli edifici, che sono un po' costosi, però effettivamente, considerato il rischio, insomma, conviene farci un pensiero. Il gioco vale la candela. Tra l'altro, questi sistemi di solito sono dotati di filtri, quindi tendono a tagliare fuori, credo, anche molti altri inquinanti, per esempio i pollini, per chi è allergico. Tipicamente i sistemi a ventilazione meccanica hanno queste caratteristiche. A proposito, diciamo una cosa: più la casa è isolata, anche dal punto di vista dell'efficienza energetica, e più è problematica, sì, la situazione. Sì, vero? Per l'inquinamento indoor c'è questo delicatissimo equilibrio fra rischi e benefici, per cui in effetti una casa troppo isolata è anche più inquinata. Troppo chiusa ermeticamente, no? Nelle case, nelle abitazioni in classe A, per forza c'è un sistema di ventilazione, altrimenti è impossibile arrivare a quei livelli. Ma in generale una buona indicazione quindi può essere questa: se scegliete di vivere in un'abitazione ad alta efficienza energetica, che è quasi completamente sigillata, attenzione alla ventilazione, attenzione ai materiali con cui è fatta la casa. E anche a che cosa usate in casa, perché poi appunto molto dell'inquinamento deriva dai prodotti, dai mobili, da quello che si usa all'interno dell'abitazione. Grazie Margherita Fronte. Grazie a voi. È tutto, a domani.